24 mattino di Alessandro Milan. Siamo qui alle 7:21 minuti, buongiorno cari ascoltatori, eccoci a 24 mattino in diretta fino alle 9, in diretta anche sulla nostra pagina di Facebook, 24 mattino. Allora, di cosa parleremo oggi? Parleremo delle carceri italiane, bene sì, le carceri italiane per le quali il ministro della giustizia Severino, visto il sovraffollamento, ha proposto tra l'altro anche... Perché non ritorniamo al braccialetto elettronico? Di questo parleremo alle 8:30. Poi avremo alle 8:20, ve lo preannuncio, in diretta dal Canada in piena notte, speriamo si svegli, uno degli autori di questa tragicommedia all'italiana, il neo sottosegretario, anzi no, il professor Francesco Braga, nominato sottosegretario per sbaglio, insomma, si può dire così, ma la spiegheremo più tardi questa vicenda, anzi subito, perché continua il giallo sui giornali, giornali che andiamo a sfogliare. È giovedì 1 dicembre, i titoli di apertura sono quasi tutti dedicati alle pensioni, banche centrali, blitz anticrisi, questa è invece la scelta del Sole 24 Ore in apertura. E poi Corriere della Sera, troppi rischi, agire subito, Monti a Bruxelles, ed ecco la carrellata sulle pensioni, Repubblica, sacrificio, l'Italia rischia, Monti lunedì le misure sulle pensioni e scontro CGIL, La Stampa, Monti, agire ora o si rischia, Il Giornale, Monti pensiona i sindacati, L'Unità, la battaglia delle pensioni, Il Messaggero, pensioni è già battaglia, Il Manifesto, strategia della pensione, ci sono alcuni pensionati ritratti in foto. Per il Fatto Quotidiano, Cosche e Mazzette, la grande retata, per Libero, la casta bara sui vitalizi, trucchi in Parlamento. Queste alcune delle aperture. Intanto, a proposito di casta, alla stregua di Lei non sa chi sono io, si potrebbe tradurre così, a pagina 15 del Corriere si racconta la vicenda che ha coinvolto un senatore del Partito Democratico, Antonio Rusconi, immortalato anche in una foto a Linate, all'aeroporto, ieri, quando... agitando bene in vista, mettendo bene in vista il suo tesserino da senatore, è riuscito a imbarcarsi con una bottiglia di spumante sull'aereo, una cosa vietatissima con le nuove norme contro il fatto di poter portare i liquidi a bordo. Spumante nel trolley, ma passa lo stesso, Rusconi mostra la tessera, sono senatore. Questa è la vicenda che racconta Alessandra Arachi. Il senatore Rusconi si è presentato al controllo del transito per Linate con un trolley che avrebbe voluto portare a bordo e che alla fine è riuscito a portare a bordo a dispetto di una bottiglia di spumante che chiunque di noi avrebbe dovuto lasciare al controllo, altrimenti imbarcare insieme al bagaglio. Ho una bottiglia nel bagaglio a mano, così ha dichiarato subito. E poi con questo tesserino di Palazzo Madama, sempre ostentato, molte moine coi carabinieri, una fretta dichiarata, il rischio di perdere l'aereo. Il senatore Rusconi mette le mani avanti, poi si spiega, quella bottiglia era sigillata, c'era persino un bigliettino col mio nome, era una bottiglia particolare, un omaggio di una senatrice che aveva voluto farci questo omaggio perché era guarita da una brutta malattia, insomma aveva un valore affettivo, io di solito le bottiglie non le porto mai e ci mancherebbe. Quella però mi sembrava brutto non portarla dietro. Vabbè, una piccola vicenda così di casta raccontata dal Corriere. Ma poi sul Corriere il Fatto Quotidiano continua allora questo giallo, di cui oggi noi ci occuperemo. Alle 8:20, il giallo del sottosegretario Braga. Ma chi è questo sottosegretario? Sono passati due giorni e ancora non si sa chi sia. Sottosegretari, continua il giallo, titolo al Corriere della Sera a pagina 12. Il vero Braga non ha giurato. Palazzo Chigi rassicura, lo farà presto. Perché lo sapete, il giallo è questo, hanno designato alle politiche agricole Franco Braga, ma per un errore all'inizio pensavano a tal Francesco Braga, professore da 28 anni in Canada, che effettivamente si occupa di agricoltura a 360 gradi da decenni. E addirittura il ministro Catania, nel giorno del giuramento del sottosegretario, ha detto: io non lo conosco di nome, di vista, ma so che il nuovo sottosegretario si è impegnato molto per l'agricoltura italiana in Nord America. E dunque doveva essere veramente questo sottosegretario, professor Braga, dal Canada, che noi avremo ospite alle 8:20. E invece no, è un altro. È Franco Braga, quasi omonimo, docente di tecnica della costruzione e presidente dell'Associazione Italiana di Ingegneria Sismica, che scrive il Corriere della Sera, non risponde al telefonino neanche a morire. Forse è infuriato perché lui pensava di diventare ministro, sottosegretario alle infrastrutture e non alle politiche agricole, di cui, vedendo almeno il curriculum, non ne sa granché. Tutto parte, scrive il Corriere, con la segnalazione dell'ex ministro Matteoli, che indica un bravo sottosegretario, Franco Braga. Ma qui nasce l'equivoco. Scambiano tutto per Francesco Braga al ministero e quindi scrivono questa mail a Francesco Braga, ignaro, in Canada, il quale dice: ma mi chiamavano e mi dicevano, è lei il nuovo sottosegretario? E Francesco Braga diceva: scusate, ma ditemelo voi da Palazzo Chigi se sono io il nuovo sottosegretario. Vabbè, insomma, un giallo, una pantomima un po' tragicomica, pare forse finita, anche se il nuovo sottosegretario, tale Franco Braga, a questo punto non ha ancora giurato. Anche il Fatto Quotidiano titola: Braga all'agricoltura, il mistero continua. Non è ancora finita, rispondono al Ministero delle Politiche Agricole, se provi a chiedere com'è andata a finire la storia dei sottosegretari. Ad aiutare il ministro Catania ci sarà l'agronomo Francesco Braga dal Canada o l'ingegnere Franco Braga? Un'omonimia che ha prodotto il caos. 24 mattino. 7:33 minuti. Allora, Mario Monti ha detto che lunedì 5 dicembre è la data confermata della manovra, che sarà ispirata a rigore, crescita, equità. E ha detto: cari italiani, facendo anche questo appello, o ci muoviamo oppure il rischio è davvero grosso. Rivolgerò un appello a tutti, siamo in una situazione straordinariamente delicata, sarà un appello al senso collettivo di responsabilità, perché se l'Italia manca questo passaggio fondamentale vi saranno conseguenze molto gravi per tutti. Così ha detto Mario Monti. Riforme e pensioni o rischiamo, così titola pagina 7 il Sole 24 Ore. Prima di entrare nei dettagli della manovra, vabbè, vi devo proporre la prima di Repubblica con la celebre, il celebre ombrello di Altan, che sapete sempre dove arriva, no? Questo ombrello tenuto da uno e si infila in una parte della persona che sta davanti. Sono pronto, dice quello davanti. Arriva! E quello dietro con l'ombrello. Lunedì prossimo sta per arrivare l'ombrello. Sta per arrivare la manovra, insomma. Questa manovra, Francesco Giavazzi e Alberto Alesina nell'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera, dal titolo Ciò che conta è la qualità, scrivono: come fare? Bisogna smetterla innanzitutto di pensare solo alla cifra finale della manovra. Una manovra da 20 miliardi, 15, 25. La composizione della manovra sarà molto più importante del saldo finale. Misure per 25 miliardi, ma che potrebbero accelerare la recessione, finirebbero per ridurre di molto le entrate, facendo saltare il saldo previsto. Una manovra più leggera, ma che aiutasse la crescita, potrebbe invece valere molto di più. Gli interventi più efficaci sono quelli che inducono a lavorare di più, perché più a lungo si lavora, meno lo Stato spende e più aumenta il reddito e quindi la capacità di spesa delle famiglie. Quindi è giusto innalzare l'età della pensione, riformare con equità le pensioni di anzianità ed è meglio prevedere un anno di lavoro in più che cancellare l'adeguamento per l'inflazione di chi già è in pensione, una misura che invece ridurrebbe i consumi. E poi ancora altre misure per Alesina e Giavazzi. Bene anche una tassazione preferenziale per le donne, che incentiverebbe sia le donne a partecipare al mercato del lavoro, sia le imprese ad assumerle, sia le coppie a riequilibrare i compiti all'interno della famiglia, liberando risorse femminili oggi sprecate. È meglio tassare di più gli immobili e meno il lavoro. Ma l'aspetto più importante, perché la manovra non ci faccia cadere nella spirale della deflazione e trasmettere il senso che si è voltato pagina. Per questo gli interventi sui costi della politica, sulla trasparenza delle nomine pubbliche come Finmeccanica è tanto importante. La fiducia non la si riconquista con un saldo di 25 invece che di 20 miliardi, ma con un pacchetto di riforme che segnali una svolta vera. E per quel che riguarda le riforme, pare che Monti davvero sia pronto ora con la sua squadra di governo a fare sul serio, se è vero quell'appello che ha fatto, vale a dire il senso di responsabilità, altrimenti qui si rischia grosso. Ebbene, secondo il retroscena della politica, sempre minori, no? L'arrivo di Mario Monti, niente, ha fatto scomparire il retroscena della politica, anche perché Mario Monti coi politici pare non parli al momento. E infatti Francesco Bei su Repubblica, pagina 3, scrive anche, neanche della disperazione, ma quasi del sollievo dei maggiori esponenti dei partiti politici, PDL, PD, Terzo Polo. Essere consultati, dice infatti qualcuno di loro, significa in qualche modo condividere. Meglio per tutti che il governo scelga il mix giusto tra le misure tenendo conto della necessaria equità e del giusto bilanciamento. Come dire, abbiamo meglio così, che Monti non parli con i leader politici, in modo che le misure che saranno prospettate anche dal punto di vista della politica sono misure scelte dal governo tecnico e noi non c'entriamo nulla. La battuta di Berlusconi, secondo Repubblica, è questa: il professore tace, non dice nulla ai politici. Anche Tremonti non ci diceva nulla. Libero è esemplificativo, a pagina 3, il professore zitti e pagare. Allora, le pensioni, oggi il Sole 24 Ore si concentra ancora su questo, sulle novità che sono in arrivo. Ormai manca davvero pochi giorni, mancano pochi giorni, un weekend, come titola il Foglio, l'ultimo weekend di paura, e poi lunedì 5 dicembre il Consiglio dei Ministri con la manovra. A pagina 11 del Sole 24 Ore dicevo: pensioni, piano da 5-7 miliardi. Questo è il titolo. Davide Colombo e Marco Rogari raccontano dell'intervento complessivo in un'unica soluzione. Questa è già una novità. Il piano sulle pensioni, a meno di sorprese dell'ultima ora, confluirà integralmente nel decreto sulla manovra da varare lunedì. Questo perché bisogna fare presto, per l'appunto, e dunque pare che Monti, insieme al ministro del lavoro Elsa Fornero, abbia deciso di rinunciare al percorso in due tappe, le misure urgenti subito e la riforma strutturale tra dicembre e gennaio, ma agire subito, tutto in una volta. Che cosa si prevede? Le continue rimodulazioni delle varie opzioni sul tappeto potrebbero modificare l'impatto del capitolo previdenziale. Ultima in ordine cronologico, quella relativa al superamento dei pensionamenti di anzianità col solo canale contributivo dei 40 anni. All'ipotesi di far salire l'asticella a 41-43 anni si aggiunge ora quella di sommare al requisito contributivo anche quello anagrafico dei 60 anni per raggiungere quota 100 subito o più probabilmente nel 2015. Sui 40 anni c'è il muro dei sindacati, soprattutto la CGIL, la Camusso, che ha usato questa frase a effetto. Il governo deve sapere che 40 è un numero magico e intoccabile. Pensioni, il no dei sindacati, così titola pagina 5 La Stampa, mentre il presidente di Confindustria Marcegaglia replica: non è l'ora dei veti. C'è anche la battuta per battuta, il vicepresidente di Confindustria Alberto Bombassei racconta La Stampa, ha detto: se riferito ai suoi di anni, cioè la Camusso, forse è un rimpianto dei 40 anni. Sulle pensioni dobbiamo fare tutto quello che fanno gli altri paesi evoluti d'Europa. Sulle pensioni, come racconta l'Unità, l'apertura è questa: la battaglia delle pensioni. C'è anche un'intervista a Gigi Bonfanti della CISL e Vera La Monica della CGIL, entrambi intervistate e messe a pagina 5, entrambi dicono assolutamente no, non si tocca il muro dei 40 anni. E dunque su questo presumibilmente ci sarà il primo vero scoglio, la riforma delle pensioni per il governo Monti. E cari ascoltatori, chi anche è sulle barricate dopo le novità sulle pensioni, o lì li chiamano vitalizi, sono i politici. Eh sì, Ieri si è sparsa questa notizia che il sistema contributivo arriva dal 1 gennaio 2012, così vogliono fare Fini e Schifani, Camera e Senato, subito, annuncio perentorio, e adesso, e questo vorrebbe dire anche alzare il minimo di età per ottenere il vitalizio da 50 a 60 anni, e ci sono, cari ascoltatori, i parlamentari in rivolta. Vitalizi, l'ultima resistenza della politica. Carmelo Lo Papa su Repubblica racconta l'ultima novità. Che cosa si sono inventati o starebbero pensando alcuni deputati per evitare la mannaia del contributivo che scatterebbe il 1 gennaio per loro? Dimettersi. Un parlamentare che si dimette. Io mi dimetto da qui al 31 dicembre e così vado, mantengo il vecchio sistema, per me non scatta il nuovo sistema, mi dimetto dalla Camera, soprattutto se ho già raggiunto i requisiti per avere il vitalizio, e se mi dimetto entro il 31 dicembre, per me non scatta il fatto che debba aspettare fino a 60 anni, magari sono vicino ai 50, c'è gente che tra due mesi compie 50 anni, avrebbe maturato il diritto alla pensione, al vitalizio. Dimettersi, tanto che la fronda è così ampia che il capogruppo del PD Franceschini ha messo già in guardia, c'è una fregatura in questo, perché per dimettersi un parlamentare deve presentare le dimissioni, ma la Camera deve approvare le dimissioni, e Franceschini ha già detto: se qualcuno pensa di ricorrere a questa furbizia, basta molto semplicemente che l'Aula respinga le dimissioni. Vitalizi, la rivolta degli onorevoli, anche sulla stampa, pagina 10, c'è anche un'intervista a Francesco Boccia del Partito Democratico. Lui è neo deputato, quindi è arrivato da poco, uno dei pochi che ricopre un incarico di peso del suo partito, disposto a uscire allo scoperto, intervistato da Carlo Bertini. Dice: se lo possono scordare di fare un'operazione sulla testa delle nuove generazioni, tutti noi entrati nel 2008 siamo furibondi per questa operazione d'immagine fatta da Fini e Schifani, non concordata con nessuno. Comincino loro. Fini e Schifani, che quando usciranno dovranno prendere una pensione calcolata col contributivo pro quota come sarà la nostra. Non è giusto che il peso di questa giusta riforma sia caricato solo a chi entrerà in Parlamento da domani o a quelli di prima nomina. Insomma, dice Boccia, il principio dei diritti acquisiti per il passato è una panzana. Allora, se si toccano le pensioni, si tocchino quelle di tutti. Questo è il classico sistema per dire: non succederà nulla. I trucchi dei deputati furbetti per avere subito la pensione anche per il giornale. E poi però attenzione, perché il Secolo XIX Libero ci scrivono un articolo oggi che ci manda in una depressione totale. Il titolo dell'articolo del Secolo, pagina 3, è: il conto della casta lo pagano tutti gli italiani. Questo è un vero inghippo, perché con la nuova riforma preannunciata da Fini e Schifani ci sarà appunto il contributivo, e dunque si prenderà il vitalizio in base ai contributi versati. Oggi il contributo che versano i parlamentari ogni mese è dell'8% dello stipendio, verrà aumentato al 30% dello stipendio. Ma sapete chi pagherà questo 22% in più di differenza? Dovrà pagarlo, questo l'ha scoperto il senatore dell'Italia dei Valori Borghesi, dovrà pagarlo il datore di lavoro. Chi è il datore di lavoro dei parlamentari? La Camera o il Senato. Chi paga la Camera e il Senato? Peter Bescapè, che ride al di là del vetro, e il sottoscritto, e tutti voi, cari ascoltatori. Quindi gli italiani dovranno sobbarcarsi, secondo questa idea, per aumentare i contributi che verseranno i parlamentari, almeno per la riforma, per questa legislatura, visto che si sono cambiate le cose in corsa, cioè il datore di lavoro si sobbarcherà questo cambio. Noi tutti, insomma, è stato stimato in 25 milioni di euro questo aggravio sulle casse e sui nostri portafogli. Avete capito, insomma, che Libero titola così: la casta bara sui vitalizi. Lo sbandierato passaggio al sistema contributivo per deputati e senatori in realtà sarà a carico nostro. Poi dopo viene in mente la vignetta di Altan in prima pagina di Repubblica. Allora, per quel che riguarda l'Europa, sono i giorni decisivi, ormai viene definito 10 giorni per salvare l'euro. L'8-9 dicembre ci sarà questo importante Consiglio europeo, per molti è lo snodo per capire se l'euro, l'Europa, l'eurozona si salverà. È per questo che il governo Monti presenterà il 5 dicembre la manovra, in modo da presentarsi poi l'8-9 dicembre a questo appuntamento europeo importante. Intanto ieri, di fronte al rischio del credit crunch, di fronte al rischio, come diceva anche ieri il presidente della Consob Vegas intervistato da Repubblica, il rischio che le banche non abbiano liquidità e quindi si fermi l'economia reale del paese, manchino i soldi per le imprese, ieri sono intervenute le 6 più importanti banche centrali. Piano liquidità in campo, le banche centrali, titola pagina 3 del Sole 24 Ore, racconta di Alessandro Merli. Le 6 più importanti banche centrali, insieme alla BCE e la Federal Reserve, hanno lanciato ieri un'azione congiunta per fornire liquidità in dollari a basso costo alle banche europee, che incontrano enormi difficoltà ad approvvigionarsi di valuta. Le misure principali sono due. La prima è la riduzione di 50 punti base del costo degli swap in dollari tra la Fed e le altre banche centrali, e due, vengono creati swap bilaterali nelle altre valute delle banche centrali coinvolte. Magari non capite queste questioni tecniche, termini tecnici, il concetto è che è stata fatta questa operazione congiunta per fornire dei dollari a basso costo, allentare così le tensioni sulle banche europee e dare loro la possibilità di approvvigionarsi di maggiore valuta, maggiore denaro, in modo da non rischiare di rimanere a secco per i finanziamenti alle imprese e alle famiglie, ovviamente. Questo a livello europeo. Intanto continuano le analisi dei giornali sulla squadra del governo Monti, a parte la tragicommedia di Braga, quale Braga sarà sottosegretario alle politiche agricole e forestali. Sia Sergio Rizzo sul Corriere della Sera oggi continua l'idea dei cosiddetti e presunti conflitti di interessi, l'articolo è incroci pericolosi e legami con i partiti, i casi nel governo, si analizza il caso del neo sottosegretario Carlo Malinconico, di Mario Ciaccia, il viceministro di Corrado Passera. Su questo si concentra un'intera paginata il Fatto Quotidiano, il titolo è Di Banca e di Cemento, Ferruccio Sansa e Giorgio Meletti scrivono a pagina 5 proprio di Mario Ciaccia, che è stato nominato appunto viceministro di Passera e che proviene dalla BIS, che è la parte di Banca Intesa che si occupa delle infrastrutture. Il viceministro alle infrastrutture Ciaccia gestirà progetti di autostrade, porti e aeroporti finanziati dalla sua tra virgolette BIS. Il conflitto di interessi, l'istituto è controllato da Intesa San Paolo, di cui è stato amministratore delegato il neo ministro Passera, uomo forte del governo Monti. Questo è per il Fatto Quotidiano il conflitto di interessi più evidente, mentre il Corriere oggi si concentra anche sulla persona di cui si occupò ieri il Fatto Quotidiano, vale a dire il neo sottosegretario alla difesa Filippo Milone. Il suo nome nelle intercettazioni di Finmeccanica, Dino Martirano lo raggiunge, ma Milone risponde: sono fatti privati, è una cosa personale, poi devo ancora chiarire questa faccenda con il ministro, meglio non parlare ora. I fatti a cui si riferisce Milone riguardano una vecchia condanna per concorso in abuso d'ufficio a 1 anno e 7 mesi, a cui seguì poi la riabilitazione, ma ci sono poi anche le intercettazioni telefoniche recenti in cui due manager di Finmeccanica parlano della sua richiesta di un finanziamento per la festa del PDL di Milano. Queste le vicende invece minori. Segnalo il neo ministro Moavero, che è entrato a Palazzo Chigi, lui è ministro agli affari europei, si appoggia a Palazzo Chigi, un ministro senza portafoglio, un ministero senza portafoglio, è arrivato e ha detto: questa scrivania era una scrivania di Mussolini, non la voglio, sono antifascista, toglietela. Mentre c'è la Lega di Lotta, la Lega ha tirato fuori con un'interrogazione parlamentare una vicenda che ieri era uscita su Libero, vale a dire il famoso taglio di Monti, che non è il taglio economico, il taglio di capelli, no? Monti che è andato a farsi tagliare dal barbiere storico la domenica i capelli, interrogazione, la domenica i barbieri a Milano devono rimanere chiusi. E poi non ha fatto lo scontrino fiscale. E quindi interrogazione in Parlamento per capire. La Lega dice: e lo scontrino, caro professor Monti? Il barbiere giura, dice: visto che era domenica, ho fatto una prestazione che non potevo fatturare, lo scontrino, la fattura l'ho fatta il martedì, quando ho riaperto poi per tutti. C'è molto di cronaca giudiziaria, le vicende che trovate sono quelle della blitz contro l'Andrangheta, fermato anche un giudice antimafia, intercettato mentre diceva: io dovevo fare il mafioso. È una vicenda incredibile, di questo anche parleremo, faremo due battute con il procuratore antimafia Gratteri, che sarà nostro ospite alle 8.30, parleremo di misure alternative al carcere, il rilancio del braccialetto elettronico, tra l'altro... questo giudice che è stato arrestato, Vincenzo Giglio, era anche firmatario, scrive Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, e protagonista di iniziative antimafia che fanno fico, questo è il virgolettato attribuito a lui, e di lettere aperte in polemica proprio col magistrato Gratteri sulla gente finalmente stufa di vivere sotto il tacco del capo bastone. Va bene, ci fermiamo qui, di questo parleremo alle 8.30. Mentre alle 8.20 avremo dal Canada, speriamo, se si sveglia, il quasi sottosegretario per un quarto d'ora più o meno, Francesco Braga. 24 mattino. Allora sono le 8.21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua. Vogliamo raccontare oggi questa storia che io ho detto a Kafka farebbe un baffo, no? Una sorta di tragicommedia all'italiana, possiamo dirlo tranquillamente, riguarda la nomina, una cosa importante dunque, del sottosegretario alle politiche agricole del governo Monti, un giallo ancora irrisolto, fa sapere oggi il Corriere della Sera. Insomma, chi è questo nuovo sottosegretario? È Francesco Braga o Franco Braga? Intanto saluto il professor Francesco Braga, buongiorno professore. Buongiorno Mina, come va? Bene, e grazie intanto perché lei ci parla dal Canada in piena notte, sono le 2.22. Lei è in Canada da quanti anni, professore? Io sono in Canada da 28 anni. 28 anni, e che fa in Canada? Io faccio professore all'Università di Guelph, mi occupo di agribusiness, in particolare di strumenti derivati applicati alla gestione del rischio di prezzo e di commercializzazione di prodotti agroalimentari italiani sui mercati nordamericani principalmente. Ha un profilo perfetto per fare il sottosegretario alle politiche agricole. E infatti lei, professore, è uno dei due protagonisti di questa vicenda che io ho definito una tragicommedia. Lei, il giorno delle nomine ai sottosegretari, ha ricevuto una mail dal ministero in piena notte canadese. Sì, sembra che io faccia il... Ma stavo correggendo gli esami dei miei studenti, alle 4.26 di due mattine fa ho ricevuto questa email del ministero che mi chiedeva di, molto molto tersa, diceva: si mette in contatto con noi, non riusciamo a contattarlo, qualcosa del genere, adesso non ricordo le parole. E io prima di mettermi in contatto sono andato online, ho visto i vari giornali, c'erano le mie foto, c'erano i vari titoli. E quindi ho mandato un'email subito con il mio numero di telefono al ministero. Cioè c'era la sua foto, nel senso è stato nominato sottosegretario alle politiche agricole. E quando la mia foto, parentesi, la mia foto in Canada, nel senso nell'ufficio di Guelph, quindi non era che uno potesse pensare, era una mia foto, mi hanno preso in qualche conferenza per caso, era la foto nel mio ufficio. Quindi era lei chiaramente sottosegretario alle politiche agricole, tanto che la contattavano dal ministero. Loro erano molto cortesemente molto precisi, e voglio chiarire la cosa, non è che mi hanno detto: lei è il nuovo segretario, ci contatti, mi hanno detto: si metta in contatto. Il problema sa qual è, professore? Che il giorno delle nomine dei sottosegretari il ministro alle politiche agricole Catania ha detto: il sottosegretario Braga io non lo conosco personalmente, ma lo conosco di fama, è un uomo che ha una competenza scientifica di alto livello, è stato molto attivo nel Nord America nel suo excursus di studi. Insomma, è lei. Io ho letto anch'io, tra l'altro è stato riportato anche da ANSA, e l'ho l'ho letto anch'io e quindi, per essere assolutamente preciso, la primissima impressione, visto l'email del Ministero, sembra molto, molto prosaica la cosa, ho pensato a uno scherzo, io ho degli amici carissimi del liceo e ho pensato a un loro scherzo, poi avendo visto online il Ministro, avendo ricevuto nel frattempo, perché sono iniziate prima delle 5 del mattino, tantissime email di congratulazioni, di stime e cose più o meno carine di questo genere, ho detto no vabbè, non è uno scherzo, non è uno scherzo. Invece io ho telefonato al Ministero e vabbè, il resto è storia, diciamo. E il resto è storia, cioè al Ministero, che è vero che le dicevano guardi, ma allora è lei il sottosegretario, e lei ha detto scusi me lo dica lei, sono io il sottosegretario, più o meno così. Ma la cosa, per chiarire la faccenda, i fatti, quando io ho parlato con il Ministero, ho parlato con una signora cortesissima che mi ha detto, guardi professore, fino a pochi minuti fa, fino a un'ora fa, una cosa del genere, era lei, senz'altro, noi eravamo sicuri fosse lei, adesso attenda, non le abbiamo ancora mandato una conferma cartacea, perché potrebbero esserci degli sviluppi. Io sono andato a me tranquillo, sì, infatti. No, gli sviluppi erano che in realtà il sottosegretario pare che sia un suo quasi omonimo, Franco Braga, che è un docente in Italia. Alla Sapienza. Alla Sapienza, sì. Io sono un docente in Italia, però in cattolica, ma comunque durante la giornata poi le cose si sono sviluppate, tornando alla sua domanda precedente, a un certo punto io ero a lezione, poi sono andato in ufficio e telefono a Palazzo Chigi a casa, risponde mia moglie, è un funzionario di Palazzo Chigi che dice c'è il professore qua lassù giù, mia moglie dice no, chiaramente è in università, gli dica di telefonare a questo numero, che è il numero di Palazzo Chigi. Io telefono, chiedo di questo signore che mi dice ma scusi, è lei sottosegretario? E io dico ma mi perdoni, non vorrei essere impertinente, dovreste essere voi a chiarire la cosa. Sono una persona, dica, ma lei sinceramente tutta questa vicenda, al di là, adesso ce la racconta anche con lo spirito giusto probabilmente, no? La mia personalità è così, in certo punto questa vicenda, diciamo che sono momenti chiaramente da un punto di vista personale, uno si sente contento, e dal punto di vista poi professionale, indipendentemente dal caso mio particolare, chiaramente indica la situazione di una certa confusione, e dal punto di vista di economista, a me sembra che una cosa del genere indichi una costante purtroppo della realtà italiana, che io direi come un'indicazione di altissimi costi di transazione che pesano sull'intera economia. E io voglio chiarire, non conosco il mio collega, anche perché io faccio l'agronomo, lui fa l'ingegnere, e quindi, però ho piena stima, non c'è tra accademici, non c'è assolutamente, tra tecnici non c'è assolutamente. No, ma per carità, lei mica ce la deve avere col Franco Braga. Ma io non ce l'ho, volevo chiarire la faccenda, che non ci siano malintesi. Ecco. No, è chiaro. Senta, io so che ieri ci siamo sentiti, lei è stato molto gentile e mi ha fatto anche una battuta che vorrei ripetesse l'ascoltatore, non voglio alzarle io la palla, ma lei è stato sottosegretario per quanto? A meno? Non lo so, perché probabilmente neanche per un minuto, ma la battuta che francamente mi era venuto in mente ieri quando ho parlato con un giorno da pecora, volevo chiedere se bastava per ricevere una pensione, è una battuta cattiva, ma sa che il tema è molto sentito in Italia, cioè le dice, visto che sono stato sottosegretario per non so un quarto d'ora o virtuale, magari un vitalizio piccolino. Sì. Anche lei se lo merita. Era una cosa provocatoria, non ho mai pensato realmente, ma certo. Anche perché non arrivo comunque ai 65 anni di gran lunga, non ci arrivo, quindi. Una battuta finale, so che lei mi ha anche raccontato di essere finito, uno dei tanti docenti finiti in storia di concorsi un pochino così, possiamo dire. Sì, lei è una cara persona, il concorso risale ormai a 20 anni fa, quando io ho cercato di rientrare in Italia e non sono stato ammesso a questo, uno dei grandissimi grandi concorsi in campo di economia agroalimentare, era un concorso per associato e non sono stato ammesso per ragioni formali. E con grande mia sorpresa, circa 18 mesi fa, diciamo, mi è arrivato un FedEx, cioè un pacchetto, dal Ministero dell'Università in cui si diceva qua là su giù c'è stato un appello, un ricorso, e dopo i vari gradi di giudizio il giudice ha ordinato di rifare il concorso. Dopo 19 anni. Qui il mondo dell'economia agroalimentare italiana c'era dentro praticamente, accademico, c'era dentro praticamente tutto, e quindi mi chiedevano se volevo ripartecipare al concorso, questo 2 anni fa, con i documenti di 20 anni prima, 19 anni prima. Senta, professore, sì, questa è l'idea. Da questo esempio è nata la mia considerazione triste, se vuole, dei costi di transazione. La certezza del giudizio dopo 20 anni, lascio a lei e agli altri ascoltatori di trarre le conclusioni. Guardi, io traggo questa conclusione, ma la prenda come un augurio finale. Rimanga in Canada, professor. Ora in Italia e in Canada. Io sono cittadino europeo per nascita, cittadino canadese per scelta, ma fine. Fine. Ciao. Intanto la ringrazio e insomma le auguro buonanotte, visto che sono le 2:31, la rimettiamo a letto, ecco, dal Canada. Il quasi sottosegretario mancato, Francesco Braga, la ringrazio. Intanto le faccio sapere che il suo quasi omonimo Franco Braga, forse nuovo sottosegretario, non ha ancora giurato in realtà, c'è un mistero, pare non si faccia trovare, forse perché non voleva fare il sottosegretario alle politiche agricole, ma vorrebbe fare quello alle infrastrutture, visto che è un ingegnere. Avrebbe una certa logica, se così fosse io non posso. Ma in questa storia di logica non c'è molto, ho capito che di logica in questa vicenda ne abbiamo vista ben poca per il momento. Quando io ho parlato con Palazzo Chigi l'ultima volta, perché sono un funzionario molto cortese, e non voglio puntare il dito contro nessuno, alla fine ero un attimo frustrante la cosa, e mi è scappato, come dice anche Trocino sul Corriere di oggi, mi ero scappato e dico: ma scusate, c'è un po' di confusione, e se questo è il governo che dovrebbe salvare l'Italia, lo dico con estrema serietà, con estremo rispetto, da italiano, veramente da italiano. Che ha detto? Ho detto: speriamo che Dio protegga l'Italia, e l'ho detto anche da cattolico, se vuole, perché questo è un piccolo esempio, però ripeto, quando ieri mi ha telefonato la BBC da Londra, ho detto: vabbè. meglio stendere un velo pietoso. Dice, dalla BBC questa notizia è piombata anche in Canada. Allora, le 8:38 minuti, sui giornali, il ministro della giustizia Paolo Severino, ieri è uscita questa dichiarazione sulla questione del braccialetto elettronico, il rilancio del braccialetto elettronico come una delle opzioni per ovviare al problema annoso in Italia del sovraffollamento delle carceri. Ne parliamo di questo, ma di come affrontare questo che è un problema, cari ascoltatori. Io già mi vedo gli ascoltatori che mi scrivono: ah, con le pensioni dobbiamo parlare delle carceri italiane, ah, chi se ne frega, buttiamo la chiave. Insomma, di fronte a questo qualunquismo imperante, noi parliamo di questo tema con Rita Bernardini, onorevole dei radicali, eletta nel Partito Democratico, ma radicale lo dico perché sì, è meglio dirlo di sti tempi. Rita Bernardini, buongiorno. Saluto anche un magistrato, Nicola Gratteri, magistrato a Reggio Calabria. Buongiorno, buongiorno Gratteri, uscito da poco con un libro di cui parleremo tra poco, tra un attimo. Prima però, onorevole Bernardini, lei che le carceri tra l'altro le frequenta, onorevole Bernardini spesso va nelle carceri, è una prerogativa dei parlamentari, ma anche, posso dire, una sua missione politica, insomma una cosa in cui lei crede molto. Intanto il braccialetto elettronico, che ne pensa? Ma intanto voglio dire che l'attenzione dei media si è concentrata su questa storia del braccialetto elettronico, che in Italia si è trasformata come una delle tante storie della partitocrazia italiana, scusatemi, ma sono anni che si parla di questo braccialetto, sono stati spesi 115 milioni di euro per avere 400 braccialetti, dei quali sono stati utilizzati 10 di questi, con effetti che ancora non sono soddisfacenti. E nel parlare del problema delle carceri, i media si concentrano soprattutto su questo aspetto. Ora, io voglio dire semplicemente una cosa. Sono stata a Regina Coeli qualche giorno fa. Allora, lì abbiamo in 6 metri quadrati 3 detenuti, quindi che hanno a disposizione meno circa 2 metri quadrati, perché poi dobbiamo metterci i mobili, i letti e tutto quanto. E in una condizione in cui restano per 23 ore e 40 minuti al giorno. Chiusi lì. Chiusi lì. Con 20 minuti d'aria, persone che sono malate, condizioni igieniche disastrose perché non gli forniscono nemmeno i detergenti. Ora, io voglio dire, c'è una direttiva europea che invece, parlando di suini, stabilisce per gli allevatori che ogni suino debba avere a disposizione almeno 6 metri quadrati. Perché se no l'allevatore viene sanzionato e il maiale liberato. Allora, questa è la situazione. Dopodiché non si può parlare solamente di carceri, che sono l'appendice di una giustizia che non funziona. Perché come può funzionare un paese dove ci sono 5 milioni e 200 mila procedimenti penali sospesi, dei quali 200.000 all'anno cadono in prescrizione? Come si può parlare di giustizia in un paese dove ci sono altrettanti procedimenti civili? Allora, a questo punto, purtroppo, e sottolineo il purtroppo, non è stato affrontato dal nuovo ministro della giustizia. Beh, che è lì da poco, però certo il primo ha fatto un po' effetto questa storia del braccialetto. Vorrei chiedere anche al procuratore Gratteri, di cui ricordo proprio il libro, il procuratore Gratteri si occupa molto di lotta all'ndrangheta, il titolo dell'ultimo libro che sta promuovendo proprio in questi giorni è La mafia fa schifo, lettere di ragazzi da un paese che non si rassegna, scritto questo come tanti altri libri col giornalista Antonio Nicaso. Le chiedo, procuratore, lei che proprio a questi microfoni anche in passato aveva proposto invece l'apertura di nuove carceri, riapriamo l'Asinara, riapriamo Pianosa, mandiamo per esempio lì gli ndranghetisti e facciamogli capire che devono stare 30 anni e che siano 30 anni effettivi di carcere. Allora, che effetto le fa sentire parlare di braccialetto, comunque di sovraffollamento di carceri e di misure alternative al carcere? Allora, intanto, visto che la spesa è stata fatta con un costo notevole, come ha detto bene l'onorevole, comunque il ministro ha fatto bene a rispolverare il braccialetto. Certo, non è stato un buon contratto per il Ministero della Giustizia, andrebbe rivisto il contratto, e non si fanno mai contratti o appalti per anni nel settore dell'informatica, perché ogni 6 mesi la tecnologia è obsoleta, quindi si fanno sempre contratti massimo a un anno o rapporti a un anno, e non si fanno mai contratti con una sola società ma con più società, per metterli sempre in concorrenza per abbattere i costi. Questo così mi regolo io per quanto riguarda le intercettazioni a Reggio Calabria, essendone il responsabile per la sala intercettazioni. Detto questo, naturalmente ci sono tantissimi altri modi per risolvere il problema delle carceri, o comunque avvicinarsi ad esso. Ad esempio, incominciare a pensare alla possibilità di far lavorare questi detenuti, i detenuti comuni o quelli che devono scontare una pena lieve, in lavori socialmente utili. Incominciare a fare degli accordi bilaterali con altri stati, ad esempio con la Romania, e mandare i detenuti rumeni condannati con sentenza definitiva in Italia a scontare la pena nel loro stato. Ci costerebbe molto, ma molto di meno, considerato il costo della vita in Italia o in Romania. Ne ho fatto solo un esempio, ma fare trattati bilaterali con tutti gli stati stranieri, naturalmente in stati dove non ci sia la pena di morte, dove non ci sia le garanzie di giustizia. Ecco. Il problema è che i trattati bilaterali vanno fatti in due. Certo. Bisogna prendere l'aereo, farsi un giro per i paesi dove ci sono detenuti italiani e fare accordi bilaterali, incontrare le persone, perché di viso spesso si riescono a ottenere grossi risultati. Questo così mi regolo io con le rogatorie internazionali nel mondo. E poi bisogna stabilire che c'è anche in Italia la possibilità, prima che costruire nuove carceri, perché ci vogliono molti anni, in tutte le carceri nuove dove ci sono, dove sono stati costruiti con tecnologia nuova, cioè con i prefabbricati, allungare un braccio 2-3 nello stesso carcere è un lavoro massimo di 3 mesi, perché ricordiamo che quando in Parlamento quasi all'unanimità si è votato per l'indulto e i detenuti facevano la ola quando i parlamentari andavano nelle carceri a preannunciare questo indulto pensando di risolvere il problema o pensando di fare captatio e benevolenza, poi nella realtà cosa è accaduto? È accaduto che l'indulto non ha risolto assolutamente nulla, oggi ci sono più di prima e oggi, tranne naturalmente i radicali, nessuno pensa, nessuno ha voluto l'indulto. Una sola cosa, una sola inesattezza mi pare abbia detto l'onorevole prima, non è vero che i detenuti hanno 20 minuti d'aria, perché anche quelli al 41 bis hanno almeno un'ora al giorno. Allora, onorevole Bernardini, perché i radicali chiedono ancora oggi un'amnistia, un provvedimento che nell'opinione pubblica è visto come, come due dita negli occhi, credo, no? Ma intanto dobbiamo dire che noi abbiamo uno Stato e le sue istituzioni che si comportano come un delinquente professionale. Il magistrato che è in collegamento con noi sa che cosa vuol dire delinquente professionale, perché sono violate tutte le norme che riguardano i diritti umani fondamentali, e parlo di diritti umani fondamentali non solo per i detenuti che sono ristretti in quelle condizioni nelle carceri, che non sono certo rieducative come stabilisce l'articolo 27 della Costituzione, ma anche per l'irragionevole durata dei processi che normalmente cadono in prescrizione. Allora, noi abbiamo uno Stato che ha un deficit, si parla tanto del debito pubblico, ma c'è un debito veramente incredibile che paralizza un paese. Però vede com'è la questione, il procuratore Gratteri spesso ci racconta invece di come lui arresta 'ndranghetisti che dopo 2 anni si ritrovano fuori grazie ai benefici di legge, perché sanno sfruttare benissimo tutte no, i tecnicismi e le tecnicalità per stare fuori. Lei ci sta raccontando che ci sono molti detenuti e cui i diritti non vengono garantiti perché rimangono in carcere magari inutilmente, poi il reato va in prescrizione e vengono lesi i loro diritti, e sono due modi di vedere poi lo stesso spaccato. Sì, vabbè, diciamo che il problema della criminalità organizzata riguarda nelle carceri circa 8.000 detenuti, 8.000-9.000, mentre ce ne sono altri 60.000 che non appartengono evidentemente alla criminalità organizzata, e anche su questo io voglio dire che uno Stato di diritto non può consentire che si metta in atto una tortura come quella che viene praticata nel 41 bis. Io lo so che sono cose che non si possono nemmeno nominare in Italia, però io ritengo che quella del 41 bis sia una vera e propria tortura. Detto questo, ci sono 28.000 detenuti in attesa di giudizio, di questi 14.000 sono in attesa di primo giudizio, la metà di questi 28.000 verrà riconosciuta innocente, quindi noi in questo momento dobbiamo dirlo, si fa una detenzione ingiusta, lei dice, molti di questi si fanno detenzione ingiusta. Una detenzione da sequestro di persona criminale, perché intanto quando il magistrato dice che devono avere almeno un'ora al giorno, allora a Regina Coeli fanno 20 minuti e poi le ore stabilite dall'ordinamento penitenziario sono 4. Sì. Dovrebbero essere 2 al mattino e 2 al pomeriggio. Diciamo, anche questa è una dimostrazione, diciamo, di diritti lesi. Procuratore Gratteri, che ne pensa di questa visione, insomma, di uno Stato? Mentre l'onorevole parlava, io intanto l'onorevole deve sapere bene che le leggi li fa il Parlamento e quindi dovrebbe rivolgersi ai suoi colleghi dei governi di maggioranza che sono succeduti, anche se sempre sostanzialmente la Lega non è stata sempre all'opposizione. L'onorevole concentrarsi intanto sulle modifiche normative che tendono all'informatizzazione del processo penale per abbattere i tempi del processo del 60% e quindi cercare di rendere il processo più più veloce, perché sa bene l'onorevole che l'informatizzazione abbatte i tempi del processo, i costi del processo e il potere discrezionale dell'uomo. Quindi tutte le energie spese per i diritti dei detenuti, che è giusto che ci siano e vengono osservati in base alle norme approvate dal Parlamento, ma è altrettanto importante che le energie dei parlamentari vengano spese per far funzionare il processo. Ad esempio, se lei bloccasse la prescrizione con la condanna di primo grado, si abbatterebbero i ricorsi per Cassazione di oltre il 50%, perché molta gente fa ricorso per Cassazione non perché sa di essere assolta, ma per andare in prescrizione. Ma per andare in prescrizione. Procuratore, quindi, però mi fa... evitiamo questi giochini e risolviamo il 60% dei problemi. Procuratore, io però un minuto, mi faccia fare questa domanda, perché lei ha scritto un altro libro, appunto, La mafia fa schifo. Io non posso non fare una domanda su quello che è avvenuto ieri. Ieri è stato arrestato un giudice, Vincenzo Giuseppe Giglio. L'accusa è terribile, quella di essere vicino all''Ndrangheta. Un giudice che in passato ha anche polemizzato con lei quando lei parlava di aria di Reggio Calabria ammorbata dall''Ndrangheta. Al di là delle considerazioni personali, delle vostre diatribe personali, che riflessioni fa lei su questo arresto? Io non ho diatribe personali, sono punti di vista diversi in una dialettica democratica. Io assolutamente non ho nessun astio, nessun rancore con collega. Io sostengo, perché sono figlio di quella terra, perché i miei compagni di scuola sono stati uccisi a Lupara, o poi sono stati il mio compagno di banco ucciso a Lupara, perché sono stati da me indagati, processati e condannati. Quindi conosco sulla mia pelle la pervasività delle mafie. È una visione diversa. Io dico che la mafia, il livello della mafia ancora non lo si è scoperto, è ancora più in alto e più pervasivo. Oggi i figli dei capi mafia sono laureati, sono medici, ingegneri, avvocati, sono primari in un reparto che al contempo questo medico si comporta da primario e da capo 'Ndrangheta. Perfetto, io la ringrazio Nicola Gratteri, così come il magistrato procuratore del Reggio Calabria, così come ringrazio l'onorevole Rita Bernardini dei Radicali. Ci troviamo domattina alle 7:20.